terra lasciasti così per giungere a noi. Come un angelo sempre sarai tra la povera gente. Pregherai ogni giorno per chi più non sente la fede nel cuore. Noi crediamo vedendo la bianca fumata per te. Caro Papa Francesco, sei entrato a tutti nel cuore. Caro Papa Francesco, ci hai dato già tanto amore. Sei venuto da tanto lontano per portare la pace tra noi. Caro Papa Francesco, rimani per sempre con noi. Ai malati carezze darai e tanta speranza. Con amore con te si vivrà con più fratellanza. Pregherai ogni giorno per chi più non sente la fede nel cuore. Noi crediamo vedendo la bianca fumata per te. Caro Papa Francesco, sei entrato a tutti nel cuore. Caro Papa Francesco, ci hai dato già tanto amore. Sei venuto da tanto lontano per portare la pace tra noi. Caro Papa Francesco, rimani per sempre con noi. Pace tra noi, caro Papa Francesco, rimani per sempre con noi. Sei venuto da tanto lontano per portare la pace tra noi, caro Papa Francesco, rimani per sempre con noi. Caro Papa Francesco, rimani per sempre con noi. Francesco, rimani per sempre con noi. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Esta bella comitiva se riunita e tutta insieme voglio festeggiare. E hai una da belle chine sola, a primavera e ora fascia. Ognuno è vinta che sta compagnia, a privarata una specialità. Che bella mangiare, che roba paesana, salame di cotte, prosciutto e caciotta. Che bella mangiare, e roba pescata, una grande porchetta. Concetto. Chissà se c'è anni nella fatta coppa fornacella, con un'idea cacciatore, con giornata salvatore, con catena matriciana, molignana parmigiana, vino rosso e vino bianca volontà. Che bella mangiata, che roba paesana, un'idea che mai chiude con scurità. Arrivo i moncelle Maria. ce stil băgaș ăsta. Că bella mangiata, ca roba paisana, salame di cotto, prosciutto e caciotta. Că bella mangiata, e roba mișcată, una grande porchetta, ca fatta concetta. Fammi un fischio che scendo sotto, ce ne andiamo a ballare, dai non farmi aspettare. Non ballava la mia nonna, lo faceva anche mamma, è tornato di gran moda in campagna e in città. Metti su una minigonna la più stretta che tu hai, fai vedere che sei donna e scatenati a ballare. Balla, balla, balla questo twist a sballo, se ti scacci il piede tu lo metti in fallo. Balla, balla, balla dondolando piano, sopra nel ginocchio per passare la mano. Balla, balla, balla senza un intervallo, senti questa musica nella tua pelle. Muovi le tue gambe, muovi le tue spalle, vai così. Baciami, baciami, amore. Baciami, baciami, baciami, amore. Dai fammi un fischio che scendo sotto, ce ne andiamo a ballare, dai non farmi aspettare. Lo ballava la mia nonna, lo faceva anche mamma, tornato di gran moda in campagna e in città. Metti su una minigonna la più stretta che tu hai, fai vedere che sei donna e scatenati a ballare. Balla, balla, balla questo twist a sballo, se mi scacci il piede tu lo metti in fallo. Balla, balla, balla dondolando piano, sopra nel ginocchio per passare la mano. Balla, balla, balla senza un intervallo, senti questa musica nella tua pelle. Muovi le tue gambe, muovi le tue spalle, vai così. E poi baciami, baciami, baciami, amore. Baciami, baciami, baciami, amore. Balla, balla, balla, balla, balla con me. Balla, balla, balla, balla ancora con me. Balla, balla, balla questo disco con me, balla con me. E poi baciami, baciami, baciami, amore. Baciami, baciami, baciami, amore. Dai fammi un fischio. Sera, rimani ancora un po' con me, ora la notte è vicina per noi, ho tanta voglia di te. Avrà più senso la vita così, se dentro noi c'è l'amore, sentire quel batticore che hai, ti voglio e tu mi vuoi. Dimmi di sì e questo bacio sarà un bel regalo che da te io avrò. Ti amo già come fosse da sempre, amore mio. Dimmi di sì e questo bacio sarà la mia promessa che io ti farò. Un fiore di lacrima bagna il tuo viso, ma io ti amo. Dai, non fare la stupida, rimani ancora, non andar via. Non voglio stare da solo stasera, ho tanta voglia di te. Avrà più senso la vita così, se dentro noi c'è l'amore. Sentire quel batticuore che ha, ti voglio e tu mi vuoi. Dimmi di sì e questo bacio sarà un bel regalo che da te io avrò. Ti amo già come fosse da sempre, amore mio. Dimmi di sì e questo bacio sarà la mia promessa che io ti farò. Un fiore di lacrima bagna il tuo viso, ma io ti amo. Questo bacio sarà un bel regalo che da te io avrò. Ti amo già come fosse da sempre, amore mio. Dimmi di sì e questo bacio sarà la mia promessa che io ti farò. Un fiore di lacrima bagna il tuo viso, ma io ti amo. Ma io quanta voglia che ho questa sera di stare con te, passeggiare da soli così sulla riva del mare. Piano piano saremo laggiù tra gli amici in balera, dove per tutta la notte voglio ballare con te. Amore, amore, dai, vieni a ballare con me. Questo valzer dell'amore mi fa tanto battere il cuore. Amore, amore, dai, ogni volta che balli con me sento già di volare lassù abbracciato con te. Dindonda, dindonda, quanta felicità. Dindonda, dindonda, questo valzer morire mi fa. Resta ancora, ti prego stasera, rimani con me. Dolcemente ti voglio così sulla bocca baciare. Piano piano saremo laggiù tra gli amici in balera, dove per tutta la notte voglio ballare con te. Amore, amore, dai, vieni a ballare con me. Questo valzer dell'amore mi fa tanto battere il cuore. Amore, amore, dai, ogni volta che balli con me sento già di volare lassù abbracciato con te. Dindonda, dindonda, questa felicità. Din don da, din don da, questo valzer morire mi fa. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Din don da, quanta felicità. Din don da, din don da, questo valzer morire mi fa. Questo valzer morire mi fa. Sono solo baci e niente più. Questo cuore mio è tanto innamorato, è pazzo dalla voglia che ho di te. Io con te vorrei ballare, oh, oh, questo mambo per sognare, oh, oh, che con te faccio l'amore, ti vorrei tanto amare, ti vorrei sempre baciare, fino a perdere la testa e far l'amore insieme a te. Nei nostri cuori nascerà, meraviglioso poi sarà, quel grande amore che mai più ci lascerà. Nei nostri cuori resterà, sempre più grande poi sarà, quel nostro amore che mai più ci lascerà. Può far male se sarà così platonico, se tu vuoi solo carezze e niente più. Io ti penso ogni momento ovunque sei, soffro tanto non averti e tu lo sai. Io con te vorrei ballare, oh, oh, questo mambo per sognare, oh, oh, che con te faccio l'amore. Ti vorrei tanto amare, ti vorrei sempre baciare, fino a perdere la testa e far l'amore insieme a te. Nei nostri cuori nascerà, meraviglioso poi sarà, quel grande amore che mai più ci lascerà. Nei nostri cuori resterà, sempre più grande poi sarà, quel nostro amore che mai più ci lascerà. Meraviglioso poi sarà, quel grande amore che mai più ci lascerà. Balliamo ancora questo mambo, vieni qua. Balliamo questo mambo per l'eternità. Shanatatapapova. Dentro me un certo non so che, forse sarà perché stasera ci sarai. Amore, amore, noi sotto lo stesso cielo baciarti e stringerti qui sul mio cuore. Noi resteremo stanotte sotto la luna così, stretti in un sogno che mai finirà. Sei l'amore mio, non ti lascio mai, per te butto al mare tutto il mio passato e ricominciare tutto insieme a te. Sei l'amore mio, non ti lascio mai, e poi del domani non mi importa niente se sei con me. Che non resterà metà quell'emozione che stasera mi darai. Amore mio, per noi non trovo un'altra via, baciarti e stringerti e averti ancora. Sogno che mai finirà. Sei l'amore mio, non ti lascio mai, e ti butto al mare tutto il mio passato e ricominciare tutto insieme a te. Sei l'amore mio, non ti lascio mai, e poi del domani non mi importa. Sei con me.